790 spezie fini. Se volete usare nella vostra cucina delle spezie buone, eccovene alla ricetta. Noci moscate numero 2, cannella di Ceylon, ossia della regina, grammi 50, pepe garofanato, grammi 30, chiodi di garofano, grammi 20, mandorle dolci, grammi 20. Se vi aggiungete altre specie di droghe all'infuori del macis, cioè l'arillo della noce moscata, che è ottimo, non farete nulla di veramente buono. Vi consiglio anche di non imitare i droghieri, i quali invece della cannella di Ceylon adoperano la cassia linea, ossia cannella di Goa, e vi buttano coriandoli a piene mani, perché questi fanno volume e costano poco. Pestate ogni cosa insieme in un mortaio di bronzo. Passate le spezie da uno staccino a velo di seta e conservatele in un vaso di vetro a tappo smerigliato, oppure in una boccetta col turo di sughero, e vi si conserveranno anche per anni con la stessa fragranza del primo giorno. Le spezie sono eccitanti, ma usate parcamente aiutano lo stomaco a digerire. Spiegazione di voci, che essendo del volgare toscano non tutti intenderebbero. Bianchire, vedi imbiancare. Bietola, erba comune per uso di cucina a foglie grandi lanceolate, conosciuta in alcuni luoghi col nome di erbe o erbette. Caldana, quella stanzetta sopra la volta del forno dove i fornai mettono a lievitare il pane. Carne secca, pancetta del maiale salata. Cipolla, parlando di polli, vale ventriglio. Costoletta, braciuola con la costola di vitella di latte, di agnello, di castrato e simili. Cotoletta, parola francese di uso comune per indicare un pezzo di carne magra, ordinariamente di vitella di latte, non più grande della palma di una mano, battuta e schiacciata, panata e dorata. Crema pasticcera, crema con la farina onde riesca meno liquida. Fagioli sgranati, fagioli quasi giunti a maturazione e levati freschi dal baccello. Farina d'Ungheria è farina di grano finissima che trovasi in commercio nelle grandi città. Filetto, muscolo carnoso e tenero che resta sopra la groppa dei quadrupedi. Ma, per estensione, dicesi anche della polpa dei pesci e dei volatili. Frattagliaio, venditore di frattaglie. Frattaglie, tutte le interiora e le cose minute dell'animale macellato. Fumetto, liquore con estratto di anaci chiamato mistrà in alcune province d'Italia. Imbiancare, lessare a metà. Lardatoio, arnese di cucina per lo più di ottone in forma di grosso punteruolo per steccare la carne con lardone o prosciutto. Lardo, strutto di maiale che serve a vari usi, ma più che altro per friggere. A Napoli, nzogna. Lardone, falda grassa e salata della schiena del maiale. Lardo vergine, lardo non ancora adoperato. Lunetta o mezzaluna, arnese di ferro tagliente dalla parte esteriore ad uso di cucina per tritare carne, erbe o simili, fatto a foggia di mezzaluna con manichi di legno alle due estremità. Matterello, legno lungo circa un metro e ben rotondo, col quale si spiana e si assottiglia la pasta per far tagliatelle o d'altro. Mestolo, specie di cucchiaio di legno, pochissimo incavato e di lungo manico, che serve a rimestar le vivande nei vasi da cucina. Odori o mazzetto guarnito, erbaggi odorosi come carota, sedano, prezzemolo, basilico, eccetera, il mazzetto si lega con un filo. Panare, involgere pezzetti di carne, come sarebbero le cotolette o d'altro, nel pan grattato prima di cuocerli. Pasto, polmone dei quadrupedi. Pietra, rognone, arnione. Sauté, così chiamasi col nome francese quel vaso di rame in forma di cazzaruola larga, ma assai più bassa, con manico lungo che serve per friggere a fuoco lento. Scaloppe o scaloppine, fette di carne magra di vitella, piccole, ben battute e cotte senza dorarle. Spianatoia, asse di abete larga e levigata sopra la quale si lavorano le paste. In alcuni luoghi, fuori della Toscana, si chiama impropriamente tagliere, ma il tagliere è quell'arnese di legno grosso, quadrilatero e col manico sul quale si batte la carne, si trita il battuto, eccetera. Staccio. Lo staccio da passar sughi o carne pestata è di crino nero, doppio o di sottil filo di ferro e molto più rado degli stacci comuni. Tagliere, vedi spianatoia. Trita carne, ho adottato anch'io nella mia cucina questo strumento che risparmia la fatica di tritare col coltello e pestar nel mortaio la carne. Vassoio, piatto di forma ovale sul quale si portano le vivande in tavola. Vitella o carne di vitella, carne di bestia grossa, non invecchiata nel lavoro, nell'uso comune la confondono col manzo. Zucchero a velo, zucchero bianco pestato fine e passato per uno staccio di velo. Zucchero vanigliato è zucchero biondo a cui è stato dato l'odore della vaniglia. Sento che alcuni trovano qualche difficoltà a raccapezzarsi per la misura dei liquidi. Davvero che questo si chiamerebbe affogare in un bicchier d'acqua. Per bacco baccone, comperate il misurino bollato del decilitro e con esso troverete tutte le misure di capacità segnate in questo volume. La misura del decilitro corrisponde a 100 grammi di liquido. 3 decilitri fanno un bicchiere comune, misura di cui qualche volta mi servo. Potere nutritivo delle carni. Prima di entrare in materia, credo opportuno, senza pretendere di essere scientificamente esatto, di porre qui in ordine decrescente per forza di nutrizione le carni di diversi animali. Primo, cacciagione, ossia selvaggina di penna e piccione. Secondo, manzo. Terzo, vitella. Quarto, pollame. Quinto, vitella di latte. Sesto, castrato. Settimo, selvaggina di pelo. Ottavo, agnello. Nono, maiale. Decimo, pesce. Ma questo prospetto può dare argomento a molte obiezioni, perché l'età, l'ambiente in cui gli animali vivono e il genere di alimentazione possono modificare sensibilmente la natura delle carni, non solo tra individui della stessa specie, ma render vani in parte gli apprezzamenti addotti tra le specie diverse. La vecchia gallina, ad esempio, fa un brodo migliore del manzo, E il montone che si pasce delle erbe aromatiche delle alte montagne può dare una carne più saporita e sostanziosa di quella della vitella di latte. Tra i pesci, poi, ve ne sono alcuni, fra i quali il carpione, specie di trota, che nutriscono quanto e più dei quadrupedi. Frustata. Il mondo ipocrita non vuol dare importanza al mangiare, ma poi non si fa festa civile o religiosa che non si distenda la tovaglia e non si cerchi di pappare del meglio. Il Pananti dice: tutte le società, tutte le feste cominciano e finiscono impappate, e prima che s'accomodin le teste vogliono essere le pance accomodate. I preti, che non son dei meno accorti, fan 10 miglia per un desinare, o che si faccia l'uffizio dei morti o la festa del santo titolare. Se non v'è duopo la sua pappatoria, il salmo non finisce con la gloria. Pellegrino Artusi, La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Letto da Paolo Poli. Collana Gli audiolibri di Luisanna Messeri. Regia di Flavia Gentili. Tecnico del suono Paolo Sant'Ambrogio. Studio di registrazione 24 gradi Recording Studio, Roma. Montaggio di Andrea Giuseppini. Una produzione Emons Audiolibri. Seguiteci su www.emonsaudiolibri.it e sui social network. Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentire.